Letture di Radio 24. Il processo d'appello contro le nuove Brigate Rosse si è concluso con una sentenza che riconosce gli imputati colpevoli di associazione sovversiva e non di terrorismo. Durante l'ultima udienza del processo, Alfredo D'Avanzo, leader delle nuove BR, ha attaccato Pietro Ichino, giuslavorista e senatore del PD, in quanto, sono parole dello stesso D'Avanzo, questo signore rappresenta il capitalismo. Lui è l'esecutore di questo sistema e noi eseguiremo il dovere di sbarazzarci di questo sistema. Ichino replica con una lettera aperta indirizzata al direttore del Corriere della Sera. Dunque, progettare un attentato alla sede di un grande quotidiano nazionale e un agguato mirato a ferire o uccidere una persona qualsiasi, assunta quale rappresentante del capitalismo, secondo questa nuova giurisprudenza non è terrorismo. Resta il problema di capire che cosa, allora, secondo la Corte di Cassazione, sia terrorismo. Se non è terroristico quel progetto dei nuovi brigatisti, ancor meno può qualificarsi come tale quello degli anarchici che a Genova hanno ferito il dirigente dell'Ansaldo di Genova, Roberto Adinolfi. Questi ultimi, infatti, confessano di non credere nel valore politico della loro azione violenta, ma di farlo soltanto per motivi esistenziali e di autogratificazione. Impugnando la pistola, abbiamo solo fatto un passo in più per uscire dall'alienazione. Con una certa gradevolezza abbiamo armato le nostre armi. Con piacere abbiamo riempito il caricatore. Scegliere e seguire l'obiettivo. Coordinare mente e mano sono stati un passaggio obbligato. La logica conseguenza di un'idea di giustizia, il rischio di una scelta e, nello stesso tempo, un confluire di sensazioni piacevoli. Non cerchiamo consenso, ma complicità. Qui c'è principalmente la soddisfazione di una qualche pulsione sadica, ma con un'esplicita rinuncia a perseguire concretamente e credibilmente effetti politici generali. Gli attentatori di Genova mostrano una piena consapevolezza della propria incapacità di esercitare costrizione sui pubblici poteri, o tantomeno di destabilizzare o addirittura distruggere gli assetti istituzionali del paese. Ancor meno, probabilmente, potrà ravvisarsi un siffatto intendimento politico nell'attentato di Brindisi contro un istituto scolastico, dal momento che chi l'ha compiuto non lo ha in alcun modo esplicitato. Come potrebbe destabilizzare o distruggere gli assetti istituzionali del paese un attentatore che neppure fa conoscere all'opinione pubblica tale suo preciso intendimento? Neppure lì, dunque, può essersi trattato di terrorismo. A ben vedere, questo è un bene per il paese. Tra le tante piaghe da curare, almeno questa del terrorismo, non ce l'abbiamo più. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Pietro Ichino, Terrorismo, il coraggio di chiamarlo per nome, dal Corriere della Sera del 29 maggio.